Il Vangelo della Messa di oggi ci presenta un passo del capitolo 16 di San Matteo che ci suona molto familiare. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? E dico che ci sono familiare perché in un certo senso riprendiamo da dove avevamo lasciato, no? Anche ieri meditavamo sul capitolo 12 di San Giovanni, e quell'immagine del chicco di grano che caduto in terra deve morire per dare frutto. E oggi di fatto in qualche modo ci ritroviamo con il parallelo, almeno concettuale, non il parallelo, non è la stessa situazione, diciamo il contesto è diverso, ma è chiaro che l'insegnamento di Gesù è lo stesso. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. E forse la tentazione è quella di pensare, beh, parliamo d'altro, no? Cioè, cambiamo argomento. Che questo già l'abbiamo, così, l'abbiamo toccato, ci abbiamo già meditato, no? Abbiamo già parlato a sufficienza. Ma ecco, dico una tentazione perché questo, in un certo senso, secondo quello che ci dicevamo ieri, è il nucleo essenziale della nostra fede, no? E certo che possiamo provare appunto la tentazione di tirarci indietro, no? Per paura, perché di fronte a questa esigenza tua, Gesù, così ci può assalire un po' la vertigine, no? E la paura. Però è come se il Signore ci stesse chiedendo una conversione, no? Ripresentandoci questi due brani della scrittura, così uno vicino all'altro, in qualche modo è come se ci segnalasse con insistenza un cammino di conversione. Certo che anche qui, no, possiamo invocare la casualità, no? Sennò perché diciamo, l'insieme delle settimane del tempo ordinario con le feste dei santi, per cui San Lorenzo, ha voluto che, appunto il caso ha voluto che, no? Che questi due brani del Vangelo si susseguissero l'uno all'altro. E che sì, senz'altro, diciamo, è vero che c'è una sequenza di, diciamo, due sequenze che si intersecano, no? Questo non c'è dubbio. Però ecco, forse anche in questo possiamo leggere, senza voler essere miracolisti o chissà che genere di così, fenomeni strani, no? Possiamo leggere una richiesta del Signore, no? Di conversione. E poi se è vero che questo è il nucleo del Vangelo, è logico che ci venga ripresentato più volte. Quindi, ecco, lo riprendiamo in mano questa tua richiesta, Signore, questa tua esigenza, questa tua forza con la quale ci chiami a seguirti da vicino. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. E quella parola così forte, no? Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché andare dietro a Gesù non è andargli dietro per le strade di Galilea o di Samaria o di, appunto, non è andare a predicare, non è andare ad assistere a miracoli. C'è anche tutto questo, certamente, no? Ma andare dietro a Gesù, seguire Gesù, vuol dire fare il cammino che lui ha fatto, cioè andare verso Gerusalemme per essere consegnato nelle mani dei capi del popolo, rinnegato, flagellato e crocifisso, e dopo 3 giorni risorgere. Questa è il cammino che Dio ha scelto per sé, e questa è la strada sulla quale siamo chiamati a seguirlo, no? E non che tutto il resto non conti, cioè non che la predicazione non conti. La predicazione conta, contano i miracoli, conta la compagnia dei discepoli, degli apostoli, conta la scelta, lo sguardo di Cristo su ciascuno, li chiama, li fa avvicinare a sé, si sta bene accanto a Gesù. E questo non è accessorio, è parte del cammino, no? Non si cammina da soli, no? La strada che tu hai fatto, Gesù, non l'hai fatta da solo. Certamente c'è una dimensione intima di Gesù che gli apostoli non colgono, ma che difficilmente è comunicabile, no? L'adorazione di Gesù, il suo rapporto con il Padre. Senza dubbio lì c'è una dimensione di solitudine, ma che è quella che sperimentiamo tutti noi, no? Quando, pur facendo la strada, pur vivendo con tante altre persone, ci sono parti della nostra vita che sono solo nostre, logicamente, non può essere diversamente. E nemmeno sarebbe giusto andare alla ricerca di una condivisione totale, assoluta, come se appunto tutta la mia vita interiore dovesse in qualche modo debordare, no? Ed essere condivisa da tutti, e viceversa, no? E che tutti condividessero con me tutto. Questo non può darsi. C'è una dimensione di solitudine che è propria dell'uomo, nella quale il Signore chiama. È nel silenzio del proprio cuore, no? Nella solitudine del proprio cuore che tu ti fai vivo, Gesù, no? che ti fai presente, che parli a bassa voce, no? Con quella delicatezza propria degli innamorati. No? Ecco, tu, Gesù, con questa parola, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. E appunto un po' paura la fai, no? Rinnegare se stessi, prendere la propria croce. Fa paura perché come posso rinnegare me stesso? A volte forse anche il malinteso sul significato di questa parola è dietro l'angolo, no? E il latino dice abneget semet ipsum, no? Che è un po' come, diciamo, negare se stessi, sì, ma come dire, come prendendone distanze, no? E rinnegare in italiano suona molto molto molto forte, no? Non che il latino abneget sia meno forte, no? Ma appunto ha questa dimensione di allontanamento, a quell'ab, no? Di allontanamento da se stessi, che appunto può essere malinteso, perché non significa annullare la propria personalità, non significa vivere come se non avessimo una volontà nostra, no? O un'intelligenza nostra, no? Come se appunto dovessimo vivere di una volontà altrui che fosse anche quella di Dio, non può sostituire la mia, non ha senso, no? Se ci pensiamo, estrarre dall'uomo la volontà per sostituirla con una volontà esterna non funziona, no? Non è umano. E invece tu, Gesù, ci vuoi molto umani. Ci vuoi molto umani perché è l'unico modo per essere molto divini. Lo ricordavamo anche l'altro giorno, no? Con quelle parole di Evangelii Gaudium, in cui Papa Francesco va a toccare la dimensione della nostra filiazione divina, in fondo. Solo grazie all'incontro con l'amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. Questa è quell'abneget semet ipsum, no? Quel rinnegare se stessi. Essere riscattati da Dio, dalla propria coscienza isolata, no? Dalla propria autoreferenzialità, come se tutto dipendesse da me, girasse intorno a me e fosse io il centro dell'universo. Certo che così nessuno lo pensa, è logico, no? Cioè, è troppo esplicito. Però tante volte viviamo così. Quanta gente vive così? Noi stessi, evidentemente, in primo luogo, ma poi in questo mondo tante persone pensano di essere, cioè che tutto debba girare intorno a loro, no? Giungiamo ad essere pienamente umani, che è uno dei grandi desideri del Signore, che siamo pienamente umani. Giungiamo ad essere pienamente umani, dice Papa Francesco, quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero, è lì, è quando Dio ci prende e ci fa figli suoi, ci fa diventare più che umani, che raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice, dice il Papa, no? Perché se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Allora non si tratta di annullarci, di vivere come se non avessimo qualità, come se non avessimo volontà, ma al contrario, volgere tutte le dimensioni della nostra vita, il nostro intelletto, la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri sogni, metterli tutti a servizio di Dio e non di noi stessi. È essere riscattati dalla nostra coscienza isolata, no? L'isolamento che ci fa tanto male, proprio perché ci isola, no? Cioè ci separa da Dio e dagli altri. E questo è quello che è venuto ad annunciare Gesù, no? Che cosa vuol dire salvare la propria vita? Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Chi vuole stare, diciamo così, attaccato a tutte le dimensioni della propria vita, del proprio essere, per se stesso, in vista di se stesso, finisce per perdere, finisce per trovarsi con un pugno di mosche in mano. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? E forse Gesù queste parole le hai dette con una certa malinconia o nostalgia di tanti uomini, di tante donne delle quali hai conosciuto la storia, perché sei Dio, che hanno preteso di dare qualcosa in cambio della propria vita. Quante persone si sono perse, quanti figli di Dio che non hanno vissuto da figli di Dio, che hanno perso la straordinaria bellezza di questa vita e della vita eterna, perché hanno voluto decidere loro, stringere le cose a sé, hanno voluto, appunto, non sono stati capaci di rinnegare se stessi in questo senso, di mettere tutto se stessi al servizio di Dio. Il Signore non ci sta proponendo uno sforzo titanico, no? Al quale aderire, perché come, appunto, come se fosse un grande innovatore che ti dice, no, tu puoi, come ci sono questi motivatori, no? Ci sono quei personaggi che nella vita fanno i motivatori, no? Cioè sono persone che dicono ad altri come fare a raggiungere i loro obiettivi, no? E, che a volte effettivamente può essere utile, e però ti dicono che tu ce la puoi fare, no? Tu puoi fare un gradino in più, no? È come appunto, penso che una di queste figure è molto, diciamo così, gettonate, è il personal trainer, no? Cioè sarebbe l'allenatore, uno va in palestra, ti danno tutta una serie di esercizi da fare, che va benissimo, perché devono essere adatti alla persona, però poi magari c'è appunto quello che... ci sono anche le applicazioni sul telefono, no? Che ti dicono, dai, ce la puoi fare, stai raggiungendo il tuo record, no? Avanti così che vai bene. Ecco, Gesù non è questo, no? Non è una persona che ti, come dire, che ti pone sempre un livello superiore da raggiungere, no? Un visionario, no? Che ha scoperto e ha mostrato un nuovo livello di verità, no? Alla quale noi non saremmo mai arrivati, no? Non è questo. Il Signore è venuto, tu Gesù sei venuto per aprirci gli occhi sulla realtà, sulla verità dell'essere e della nostra vita. E Romano Guardini, il Signore ad un certo punto fa un esempio che mi sembra molto, molto interessante, no? Dice... È come se ci fosse una nave, uno di quei veicoli possenti che formano già un piccolo mondo, apparati e congegni per i più diversi scopi, responsabilità e prestazioni di ogni tipo, persone buone, dubbie, cattive e con esse tutto ciò che costituisce la vita, forze del cuore e dello spirito, passioni, tensioni, lotte, no? Tutto quello che è proprio della vita di una persona, no? Un piccolo mondo, no? che in cui tutti lavorano in una certa direzione, no? La nave deve essere guidata, no? con intelligenza, e che tutti devono mettere al servizio della nave le loro capacità, no? Non si tratta di dire basta, no? Tu che sei capace di, non so, di leggere il radar, adesso ti occuperai di spazzare la... No, tu devi stare al tuo radar e leggere il radar, perché altrimenti andiamo a sbattere, no? Quanto fa ciascuno di... E ora venisse una persona e dicesse, quanto fa ciascuno di voi è importante e voi avete ragione di volerlo fare sempre meglio. Le nostre qualità che desideriamo far crescere, le nostre virtù, la nostra conoscenza della vita. Io voglio aiutarvi. Gesù che parla in qualche modo, nell'esempio, ma non per cambiare questo o quel particolare sulla nave, ma perché vediate che tiene una rotta sbagliata e si dirige verso il naufragio. Allora rinnegare se stessi non significa annullare la nostra personalità o fare ciò per cui non siamo portati, che sarebbe profondamente sciocco. Ma invece è impiegare tutte le nostre energie, tutta la nostra capacità, tutta la nostra intelligenza, la nostra volontà, per cambiare rotta. Perché la rotta della nave non sia verso il naufragio, ma verso la salvezza, verso la meta, verso il porto. le cose stanno in un certo modo così, dice Guardini. Gesù non si presenta nella serie dei filosofi per insegnare una filosofia migliore. Non si presenta nella serie degli studiosi di etica per predicare una moralità più pura. O della serie delle indoli religiose per portare a una più profonda esperienza del mistero dell'esistenza. No, nulla di tutto questo. Egli ci vuole dire che l'intera nostra esistenza, insieme con tutto ciò che in essa è più o meno buono, economia e filosofia, istinto e spirito, natura e arte, etica e pietà religiosa, precipita, allontanandosi da Dio, verso la rovina. Ci vuole aprire gli occhi affinché vediamo. E vuole darci un punto su cui porci e da cui poter rilanciare verso Dio l'esistenza, e ci vuole dare la forza che a ciò è necessaria. E questo, se ci pensi, è straordinario. Cioè, si tratta di impiegare le nostre energie, le nostre capacità, tutto ciò che nell'uomo è buono, per un bene più grande, potremmo dire così, no? Per un modo di vivere che è molto più ampio, molto più significativo, un orizzonte straordinariamente più bello. E allora si capisce che le nostre virtù sono qualcosa di molto importante, di meraviglioso, che va impiegato in questo modo, verso questa meta. Le nostre capacità sono stupende. Dio ama le nostre capacità, ama le nostre passioni, ama tutto ciò che è nostro, tutto ciò che è umano, lo ama profondamente, tutto ciò che è buono, evidentemente, no? nel cuore dell'uomo, mentre odia con molta forza, con altrettanta forza odia quei moti che allontanano da Dio, che allontanano gli uomini l'uno dall'altro. Però Dio in noi ama tutto ciò che è nostro, e lo ama profondamente, e ci considera ciascuno di noi un elemento essenziale nel suo disegno di salvezza, perché non esisterà, non è esistito e non esisterà mai un'altra persona uguale a noi. E questo per Dio è un tesoro infinito, immenso, del quale Lui stesso vuole godere per sempre. Quel dono che è uscito dalle sue mani e del quale Lui stesso vuole godere. Allora si capisce che ha senso mettere tutto, davvero tutto a servizio dell'amore di Dio, per allontanarci dal naufragio, ma soprattutto perché vogliamo raggiungere questo Dio che ci ama così tanto, in maniera così straordinaria. E il cuore di Gesù è il cuore più sensibile che esista, è il cuore più attento ad ogni singolo moto dei nostri cuori. Allora, qualunque cosa, anche la più piccola, anche la più semplice, un gesto, uno sguardo, per Gesù è un regalo, è un dono. Questo è rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire Gesù. A che serve dare la vita se poi finisco per attaccarmi ai miei gingilli, alle mie opinioni, al mio tempo, ai miei spazi, ai miei abiti, ai miei oggetti, no? Questo mio, no? Mi vengono in mente le parole di nostro padre, no? Mio, no? Che cosa t'ammolesta? E questo è il punto, no? Cioè, se davvero cogliamo e ti chiedo, Signore, di darmi luce su questo, no? perché io lo veda con maggiore chiarezza e poi possa seguire, no? Questo, perseguire questo obiettivo. No? Se davvero vediamo che tutto questo vale la pena, che seguire Cristo è il senso della nostra vita, se davvero lo cogliamo con questa profondità, allora ha senso invertire la rotta, no? Ogni volta che sarà necessario, ogni volta che mi rendo conto che appunto di un attaccamento sciocco appunto alle mie opinioni, no? Come se dalle mie opinioni dipendesse il destino dell'universo, su questa cosa possiamo anche soprassedere, non succede niente, no? Non è che... E allo stesso tempo però averle le opinioni, no? Cioè, e la cura del nostro corpo, no? Quanto è importante. Dice, no, ma aspetta, tu stai parlando... qui il Vangelo dice, se rinnegare se stessi, prendere la croce, mi sembra il contrario, no? Cioè uno non deve avere cura del proprio corpo. No. Il corpo è una parte del dono che noi siamo per Dio, no? Ma vivremo per sempre con il nostro corpo, no? La nostra vita eterna ha a che fare con il corpo. E uno può dimenticarsi, dice no, per distacco io non mi prendo cura di me stesso. Pessimo, no? Pessima idea di distacco, no? Invece prendersi cura, no? L'eleganza, no? Quante volte abbiamo parlato di eleganza, gli abiti, allora, qui, là, su. Benissimo. Ma in questo senso vale la pena. Non per stare ad alcune regole, ma perché ci sei tu, Gesù. Allora, senz'altro, quel vestito, quella cosa concreta, che io l'abbia o non ce l'abbia, non succede niente. Ma che nella vita io cammini curato e ben tenuto, diciamo così, sì, e quanto più meglio, senza fare cose strane, no? Però la nostra vita non è fatta solo di virtù, è fatta anche di cose molto concrete, nelle quali si manifestano le virtù. Però ecco, Signore, ti chiedo luce perché io possa inquadrare sempre con maggiore chiarezza la tua sequela. Che cosa significa distacco e che cosa significa seguirti? E non è facile, perché a volte noi siamo molto condizionati da modi di fare, da esperienze passate, appunto, non sempre è facile distinguere appunto ciò che è modo di vivere la virtù e ciò che è, cioè, ciò che è essenziale da ciò che non lo è, no? È una grande difficoltà che abbiamo sempre, no? Nella quale dobbiamo imparare a districarci. E ti chiedo, Signore, di aiutarci in questo, no? Di aiutare me e di aiutare tutti, no? Perché non viviamo per stereotipi, ma perché viviamo la nostra vita con te, che è unica, che senz'altro ha delle dimensioni delle linee ricorrenti, no? Che sono proprio di tutti gli uomini, di tutte le donne di questo mondo. Ma come io, ci sono solo io, come me, ci sono solo io, davanti a Dio e davanti agli altri. E questo è un dono del quale dobbiamo essere sempre più consapevoli. La Madonna aveva probabilmente questa consapevolezza, no? O senz'altro adesso ce l'ha, no? Di essere il capolavoro di Dio. Il dono più prezioso uscito dalle mani di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, lei possiamo chiedere aiuto perché ci insegni a non considerare questa ricchezza, questo essere dono, un tesoro geloso, come direbbe San Paolo, ma ma che ci aiuti a condividerlo, no? A renderci dono ognuno per gli altri. Santa Maria, Madre nostra, prega per noi. Thank you.